Blue Radio. Rock Wave. Sì, perché l'onda del rock. Qualche istante di ritardo, ma eccoci ancora qui nelle frequenze di Blue Radio Veneto con Agostino, ma soprattutto con Maurizio, perché adesso io mi ritraggo. Sì, ti allontani. Sono qui con voi, vi ascolto, starò qui in regia, ma comunque abbiamo questo gruppo che si chiama Not For Sale, che ascolta, adesso comunque vi aprirò i microfoni e sentirete tutto. E dicevo, questo gruppo che ci viene a trovare qui dalle 22 circa alle 24 con la loro musica, ma le parliamo tra qualche istante. Prima i nostri dati: 88 700 e 94 600 sono le frequenze in modulazione di frequenza. Vi ricordo lo streaming, basta andare sul sito della nostra emittente, cioè www.blueradiomaneto.it, lì trovate tutto, oltre ad ascoltarci 24 ore su 24 in diretta. Due pagine Facebook, semplicemente Blue Radio Veneto, l'altra è Blue Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico, che salutiamo, che è colui che organizza gran parte dei concerti che vengono fatti in questa emittente, e cioè Alberto Prisco. Quindi un caloroso saluto da parte mia, da parte di Maurizio. Se ci stai ascoltando, Alberto, buon ascolto. E adesso, Maurizio, ti cedo la parola. Io mi dico, ti allontani, ti nasconti. Dopo il blues tradizionale e non di Carmelo Amenta, adesso passiamo al punk rock dei Not For Sale, direttamente con furore da Susanna la Mantova. Esatto. Il punk. Perché il punk? Il punk è una bella cosa. Facciamo il rock a 360 gradi. Buonasera, ragazzi. Avete fatto un buon viaggio? Ciao, sì, un bellissimo viaggio. Sì, ciao. Sì. Ok. Bene, non vuole parlare il bassista, o no, il bassista, no, il chitarrista, no, non vuole parlare stasera, è muto. Ma ha una bellissima chitarra, fammi vedere un po' la chitarra. Si accende, bellissima, molto bella, anche visivamente. Un bel celeste, quasi, insomma, oceanico, possiamo dire così. Bene, quarto disco mi pare, così. Sì, esatto. Calma piatta, ma mica tanto secondo me calma piatta. Bello, bello, e potente, un disco potente, però stasera, cari ascoltatori di Rock Wave, in versione acustica. Il bello del punk o della musica violenta, nel senso pomposa, cioè forte, è di farla, di trasformarla in modo acustico. Sì, non è mica semplice, ragazzi, o no? No, direi di no, però ci avete provato. Sì, esatto, visto, è una situazione che ci piace molto comunque. Adesso vi presentiamo uno a testa, uno praticamente il cantante, il frontman, si dice così. Esatto. Vai, come ti chiami? Cioè, io sono Anto e sono la voce del gruppo e la chitarra ritmica. Abbiamo il rapper, esatto, che è fonico, rapper, Principe. Sono Virgo, ciao a tutti. Il nostro batterista, che ha una bella maglietta di un vecchio film, vero? Ce l'hai, vero? Esattamente, il nostro bassista, vieni. Io mi chiamo Lino e sono il bassista dei Not For Sale. E quello che non vuole parlare, che adesso parla. Io mi chiamo Spad e sono chitarra. Benissimo. Quindi Not For Sale, dove è nato il discorso di Not For Sale? Quanti anni fa, caro frontman? Andiamo indietro perché siamo nati come gruppo, siamo nati nel 2001, quindi insomma è stato qualche anno fa. Sempre appunto nella nostra zona, insomma, ovviamente abbiamo cambiato vari componenti. Comunque nel 2001 siamo partiti facendo dello ska core, del punk, punk rock. Lo ska, sì. Non mi sono addentrato mai nello ska. Che cos'è lo ska core? Allora lo ska core era quel portato agli eccessi, praticamente. Sì, esatto, era quel misto, diciamo, tra lo ska classico, come per esempio potrebbero essere i Madness, assolutamente gruppo. Tutti, esatto, si ricordano di Madness, che sono ritornati recentemente, esatto, ha fatto un disco nuovo recentemente. Cosa ne pensate del disco nuovo di Madness? Ma io non l'ho ascoltato, sincero, non l'ho ascoltato. Quindi non, però li ascoltavo molto prima. Anche Agostino sentiva i Madness, però sì, sono un gruppo abbastanza sono famosi, famosissimi, infatti non li ho citati a caso. Comunque era quell'incrocio tra lo ska classico e il punk rock. Comunque i pionieri in Italia erano gli Shandon, per esempio, che sono tornati anche loro di recente. Insomma, siamo partiti con un genere così, eravamo ovviamente i primi accordi, le prime armi, insomma, poi ci siamo spostati. Eccoli. Esatto, è una cosa di questo tipo. Per poi si accelerava, certo. Con ritmi un po' più sostenuti. Quindi, insomma, Anto, li hai conosciuti, hai praticamente fatto l'embrione della band, o vi siete, per caso è successo questo? Allora, come dicevo prima, appunto, noi abbiamo cambiato un po' di componenti. Diciamo che il gruppo è nato quasi per scherzo, diciamo, in un bar. E poi però... Chi nasce in un garage, voi siete nati, esatto, in un bar. Siamo nati nel calcio coperto dove ci trovavamo, insomma, certo. tutti... Abbiamo anche il quello che, esatto, fa il video. Ciano, che è il nostro video, lo salutiamo, lo salutiamo. Esattamente. Esatto. E niente, siamo partiti da lì e poi... Come dicevo, appunto, abbiamo cambiato un po' di componenti, siamo arrivati fino ad oggi dove praticamente Mimmo, il batterista, è il membro dopo di me, insomma, che è qua da più tempo, dal 2003 mi sembra, no Mimmo, cosa dici? Il batterista è sempre all'angolo, ma perché, fisicamente perché ci sta nell'angolo e poi perché ha la batteria che deve suonare. Sì, infatti è lì, nell'angolino. L'angolino, però l'energia del batterista poi si sentirà. Io mi metto qua e non mi muovo. Perfetto. Però dicevi, a microfono spento, che sei stato in un'altra occasione, però dopo hai visto che la batteria bastava spostarla. Sì, praticamente abbiamo fatto il video, abbiamo registrato. Devi alzarti un po' il microfono. Alzati un momento il microfono. Perché sennò devi avvicinarti. Così va bene? Sì, va bene. Okay. Bene. Sì, dicevo che... durante la registrazione del nostro secondo video, che uscirà qui a giugno 2012, eravamo in una stanza abbastanza piccola, quindi io... Ma più o meno come questa, secondo me. Sì, più o meno come questa. Quindi io mi sono praticamente montato la batteria attorno e sono rimasto seduto lì 2 ore e mezza, mentre gli altri mi portavano da mangiare, mi portavano da bere. È un recluso, sì, praticamente. È stata una situazione un po' così simpatica. Come se fosse bloccato, insomma, un po' sul water. Esatto. Praticamente un pomeriggio così. Bene, bene. Non è stato positivissimo per te, ma insomma... Sì, il risultato però è stato positivo. Esattamente. Quindi, ok, quindi è nato il progetto, è nato così, ma 4 dischi sono tanti. Sì. E sì, come mai tanti. 4 dischi siete arrivati a Calma Piatta, che è l'ultimo? Beh, allora, 4 dischi perché appunto la nostra produzione è stata abbastanza, diciamo, fitta in questi anni. Ci siamo cimentati, come dicevo, in più generi, quindi siamo cresciuti e ovviamente abbiamo trovato la nostra strada suonando, insomma, sia tanto abbiamo suonato molto anche fuori, molte date. Dove siete stati fuori? Beh, abbiamo fatto tantissimi concerti, però principalmente nel nord Italia, comunque le feste della nostra zona, ma poi anche Milano, Torino, insomma, Parma, Bologna, insomma, abbiamo suonato un po' ovunque in questi anni. E tutto questo ci ha permesso appunto di arrivare a Calma Piatta, insomma, siamo passati proprio dal punk rock classico, proprio... Questo è abbastanza melodico, secondo me, in alcuni momenti. Stop and go vari a un genere, diciamo, più mirato e secondo noi abbiamo raggiunto quello che volevamo, il nostro suono, la nostra particolarità, insomma, in Calma Piatta si sente molto. Ecco, visto che dobbiamo sentire molto in Calma Piatta, fra poco sentiremo anche il live, chiaramente, suonare, apriamo la nostra finestra come sempre e facciamo sentire la traccia numero 2 che abbiamo scelto precedentemente. Sì, esatto. Sei d'accordo? Sì, il nostro fonico, esatto, ha detto di sì. D'accordissimo. D'accordissimo. La sentiamo prima e poi ne discutiamo e ne parliamo, sì, ok? Sì, certo. Ok. Non avremo mai la censura, fa cash nelle lobby del... Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Fino all'ultimo secondo, perché qua non si taglia nulla, fino all'ultimo secondo, proprio l'ultimo, l'ultimo briciolo di chitarra. Giusto, dà fastidio quando ti tagliano. Ma perché si deve tagliare le cose? Un regista vuole... Se è stata fatta fino a lì. Si sfumava negli anni 90, basta. Il punk non si taglia mai, il punk dura 2-3 minuti, i ricordi di Ramones, anche 45 secondi, però erano i Ramones hanno guidato tutti i panchettari di sto mondo, anche i Clash, ragazzi, però i Ramones avevano le loro maggiori. I Clash erano più avanti, però i Ramones erano i Ramones. Sì, beh, erano stati proprio... Allora, adesso mi dite com'è nato sto pezzo. Allora, questo è innanzitutto il nostro primo singolo, e dove abbiamo il video, praticamente. Esatto, il videoclip, ed è in promozione appunto in varie reti digitale terrestre. Stiamo aspettando appunto i network, sta andando molto bene, bene. Su internet. Beh, allora, questo pezzo è stato da dove siamo partiti, praticamente. Esattamente, quindi, sala prove, direi. Esatto, sala prove. L'idea, dove è partita l'idea? Tu, Anto? Sì, l'idea è partita da me e... Testo sicuramente, e giro armonico, poi insieme l'abbiamo costruito. E appunto un pezzo secondo me abbastanza potente, e ha il giusto equilibrio tra la potenza, diciamo, sonora che vogliamo dare e il testo, che è la parte più importante della nostra musica, perché comunque non ricordiamoci che un genere come il punk rock fatto in italiano, fatto in questo modo, non è semplice, quindi richiede sicuramente molte più che prove, insomma, uno studio, ecco, delle armonie, uno studio della musica. Sembra facile perché magari non è blues o jazz via discorrendo, ma richiede molto. Però impegno, qualcuno insomma. Dice giustamente, come tu hai prima parlato, che fare un pezzo semplice è ben più difficile che fare un pezzo complicato. Sì. È molto più difficile. Quando un pezzo ti prende immediatamente, la base della costruzione del pezzo è molto più complicata, molto più complessa. Sì, è vero, in effetti comunque prima o poi è un pezzo sostanzialmente, diciamo, tra virgolette, abbastanza semplice. Sì, semplice, però... perché gli accordi non sono sviluppati. Intendo quello. Però è semplice nel senso, quando ti prende, perché possiamo dire una cosa, questo è punk rock, sì, ma è un punk rock melodico, secondo me. Sì, molto melodico, che entra immediatamente, è accattivante. Certo. Per quello è il pezzo iniziale del disco, il pezzo che dà il lancio al disco. Sì, infatti l'abbiamo riconosciuto subito come il primo singolo, insomma, anche tra tutti gli altri pezzi. È stata la buona partenza, secondo noi, di tutto il lavoro che abbiamo fatto. E la vostra gente che vi vede con questo pezzo, come si muove dal vivo? Beh, dal vivo si muovono, insomma, si muovono bene. Anche qua ci muoviamo, Ormai lo riconoscono la prima nota. Esatto, lo cantano. Tu hai detto una cosa positiva: riconoscere un pezzo alla prima nota è significativo di una band. Vuol dire che la gente ha recepito immediatamente quello che la band propone. Al di là che sia un pezzo di un minuto, due minuti, non importa. Infatti. Non importa. E quello è importante. È fondamentale quello, secondo me. Sì, infatti nella sua semplicità comunque è un pezzo che secondo noi è molto valido, soprattutto a livello di testo, insomma, è un testo molto attuale, insomma, ci crediamo molto, insomma. L'abbiamo scelto a caso, insomma. Poi non scegliamo mai a caso, perché vogliamo suonare assolutamente, siamo pronti. Sei pronto? Sì. Sei pronto anche lui. Il non parlante è pronto per quella bella chitarra color oceano. Lui è creatore di suoni ed emozioni, quindi non parla, crea suoni ed emozioni. Perfetto. Cosa suoniamo per iniziare questa cavalcata che ci porterà fino alle 24? Suoniamo Calma Piatta. Ah, quella title track. Esatto, la title track del nostro disco. Benissimo. Le maschere di finti eroi, quelli che sanno tutto e fanno niente, ma la finestra della verità non badiamo, finché il male è al di là del nostro schermo piatto. E allora cosa vuoi che sia? Da qui le bombe non si sentono e neanche fanno male. Se cambi canale, siamo già in guerra e tu lo sai. Tiranno il tempo è una battaglia contro l'ignoranza, l'indifferenza. Sveglia, è tutta polvere negli occhi, questa calma piatta. imprigionati nella libertà di quel sistema a cui giocano tutti. La prima regola del social club è non parlarne. L'umertà è la salvezza della stretta cerchia che non vedi e non senti. Ma comanda i fili del giocattolo, informa il negoziante che è tutto ok. La crisi è normale, il peggio è passato. Favole, basi fatte per coprire l'inganno su scala mondiale. Siamo già in guerra e tu lo sai, sai. Persa in partenza la battaglia contro l'ignoranza, l'indifferenza. Sveglia, è tutta polvere negli occhi questa calma piatta. Non potrai cogliere la vera essenza della storia che porta in guerra le persone contro l'ignoranza, l'indifferenza. Sveglia, è tutta polvere negli occhi questa calma piatta. Siamo già in guerra e tu lo sai. Sai, tiranno il tempo è una battaglia contro l'ignoranza, l'indifferenza. E sveglia, è tutta polvere negli occhi questa calma piatta. L'ultimo istante ci doveva essere perché il bassista, l'abbiamo detto prima, appunto, il bassista deve dare l'ultimo tocco perché il basso è fondamentale in una band, basso e batteria, il traino ritmico, c'è poco da fare. Bello, un pezzo molto bello questo qua, che sa di speranza però, cosa dici Anto? Sì, sì, è sicuramente il messaggio che vogliamo dare, di speranza, ma soprattutto di, appunto come diciamo nel ritornello, di sveglia. Di sveglia, sì. Questo pezzo ovviamente qua è reinterpretato, poi fuori è molto, cioè rende diversamente, sì, rende certo. Molto più il concetto, ma comunque... Qua è meglio perché si sentono anche molto di più le parole. Le parole. Esatto. Poi quando avete presentato il disco, mi pare aver letto, a Firenze, a FNAC, l'avete presentata acusticamente, sì, parlando. Esatto. Sì, sì, abbiamo fatto un emozione unica. Come è andata quella rappresentazione a Firenze al FNAC? Andata molto bene. Sì, sì, è andata molto bene. Insomma, abbiamo avuto un buon riscontro. Le persone, la gente, insomma, si sono fermati ad ascoltarci. Sicuramente è nato molto bene, una bella esperienza da rifare. Che insomma. Importanza ha avuto David Bonato della Vrek a dare uno stimolo, una forza a portare avanti il progetto Not For Sale? David diciamo che ci ha capito, ci ha capito perché oltre a essere... Lo insomma, salutiamo David. Sì, lo salutiamo, ciao David. Ciao, ciao. David. Ciao David. sicuramente ha capito il nostro progetto, perché appunto il nostro progetto... rimane un po' sospeso tra quello che è l'alternativo, magari il punk rock, e quello che è il pop, perché comunque sì, esatto, è così, è una bella fine, mistura, quindi... nel senso positivo, esatto, del termine, una coesione tra il punk rock e la melodia, perché la melodia esiste, ragazzi, c'è sì, poco da fare. Sì, sì, sì, sì. Infatti è lì appunto dove noi vogliamo arrivare, dove insomma abbiamo cercato di fissare appunto in questo album. Lui ha avuto sicuramente il merito, oltre anche di tutto, della promozione, il disco e tutto, ma anche di capire effettivamente noi dove possiamo stare, ecco, perché è molto importante avere una persona che capisce il progetto e non solo dice beh sì, siete fighi, va bene, oppure sì, la musica è bella, però insomma le parole non dicono niente, insomma, ma è lo stesso. Qualche critico ha parlato della onda lunga, ma nel senso positivo, di Green Day. Sì, può darsi che sia vero. Sì. Green Day è un gruppo storico, un gruppo che ha fatto certo cultura punk, ma punk melodico, un punk da milioni di copie, questo è chiaro. Però è solo un punto di riferimento, la musica è vostra, il percorso è vostro, assolutamente. No, sono d'accordo, sono finalmente, i Green Day sono tra le nostre diciamo principali fonti di ispirazione. Il batterista si è un po', non ha fatto tanto rumore perché giustamente in fase acustica, però nelle cronache che ho letto io pesti notevolmente, è così. Sì, diciamo che sono due situazioni completamente diverse. Cerchiamo di dare molta potenza quando siamo live in elettrico e cerchiamo di rendere un po' più, diciamo, un po' più dolce questa situazione in acustico, che comunque ci piace molto. Che spacca. Non sei d'accordo sull'acustico? Un po' meno. Un po' meno. Ti vedo che non sei d'accordo. Mi devo adattarmi. Sì, Virgo si deve adattare. Lui ma è il rapper. Democraticamente lo fate adattare o no? Mi adatto e basta. Non Virgo, ne parliamo neanche. Virgo è una persona molto importante, è stata una persona ed lo è tuttora, certo, molto importante, certo, per l'album. È decisamente importante anche come fonico, ha sistemato tutti i suoni, è una cosa positiva, molto positiva. Però l'acustico non ti è proprio, tu sei rap, tu fai Io il vengo rap. Dal microfono in mano e camminare sul palco, saltare, quindi... Ma si può saltare anche acusticamente parlando, ti ricordi Jeff Buckley come saltava, se era una chitarra acustica? Certo, però è un modo diverso di intendere il salto. Ecco, proverò magari con questo microfono che ecco. Mi sembra un po' attaccata alla scrivania. Sì, vi devo rubare 31 secondi. No. Sì. Va bene. Spot. A Padova, dal 14 al 20 maggio, l'Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Padova presenta Silenzio e Parola, settimana della comunicazione. Ingresso libero. Per info, diocesipadova.it/comunicazione. Domenica 20, Parco Etnografico di Lubano, dalle 15.30, Aquiloni e Mongolfiere. Letture animate e giochi. Iniziative realizzate con il contributo della Fondazione Cariparo. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 22:32 Rock Wave con Maurizio, ma soprattutto con i Not For Sale, che sono venuti a trovarci, come dicevo prima, in questa serata con la loro musica. Vi ricordo, se volete interagire con noi, i nostri numeri di telefono, ovvero sia quello in studio, è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se ne volete mandare per fare qualche domanda a questi nostri amici che sono qui presenti questa sera, vi ricordo il 346 2320 033. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, ma questa è la voce di Maurizio Cazzavara. Ci salutiamo Gianluca Agostino, certo. Gianluca, che ha ospitato in una emittente, un collega di un'emittente in provincia di Verona, che ha ospitato i Not For Sale qualche mese fa, vero? Sì, sì, lo salutiamo, lo ringraziamo. Benissimo. È stata una bella serata. È stata decisamente una bella serata, anche questa è una bella serata, un'ottima serata. Visto che è un'ottima serata, adesso, visto che tu hai la chitarra in mano, perché tu sei il chitarrista della band, Anto è il vocalist e chitarrista, ma il chitarrista di una band di punk e non soltanto di punk. Che funzione ha? Vieni avanti un secondo. Aia. O se vuoi puoi gesticolare e parlo io. Adesso scherzi, io vorrei sapere, nella costruzione del pezzo, cosa ci metti dentro, musicalmente allora, parlando? Allora, guarda, ti dico con sincerità che hai scelto proprio la persona sbagliata. Perché io sono l'ultimo. Perché io vedo volentieri sta chitarra con questo colore molto bello, e allora ispirato. Però per la domanda, diciamo, io sono la persona più sbagliata perché sono l'ultimo entrato nel gruppo e vengo da tutt'altro. Cioè, io ho sempre ascoltato tutto, quindi rock, punk, eccetera. Però vengo da tutt'altro genere, diciamo. Dal liscio, no? Beh, può darsi. Ho fatto anche delle sessioni in orchestra del liscio. Quindi, insomma, per la musica si fa tutto, non è certo. Comunque, diciamo, io ho dato il mio supporto sempre in post, cioè il compositore è Anto. E poi dopo io ho messo la mia parte, però come ti dicevo appunto... Ma Anto compone sia musica che testi, praticamente. Sì, Anto compone tutto praticamente. Sì, però poi comunque il gruppo... È una democrazia però in gruppo, quindi... Sì, cioè... l'idea viene da me, però comunque... Anche se c'è il rapper che non è molto d'accordo. No, il rapper è sempre d'accordo. No, non c'è nessun dittatore. Sto scherzando. Figurati. L'ultima parola ce l'ha sempre il rapper, siccome è lui che regista. Esattamente. Io sono una marionetta, è lui che muove i fili. Sì, lui muove i fili. Quando non mi piace dico che ho cancellato la traccia per sbaglio. Quindi è andata così. Va bene, dimmi. Orlando. No, dicevo, volevo agganciarmi al discorso di Spade. Chiaramente noi veniamo da quattro generi totalmente differenti. E quindi sicuramente la forza anche del nostro gruppo è anche questo, che comunque ognuno ha portato il suo modo di suonare, perché anche Lino, il bassista, non viene prettamente dal punk rock come impostazioni, come background, è un bassista funky. Sei un bassista funky. Esatto. No, sempre suonato funky, dance, 70-80, Red Hot Chili Peppers, gruppi cover, vari, sì. Però adesso suona cose originali di Not For Sale. Certo, sono ben contento anche, perché è stata anche una maniera di imparare qualcosa di nuovo. Genere che mi è sempre piaciuto, che ho sempre ascoltato, ma che non mi sono mai cimentato a suonarlo seriamente, diciamo. Però è difficile, secondo me, scaricare in un minuto, in due minuti, l'energia e anche la melodia. È molto difficile. Non è semplice il punk, sembra semplice. No, abbiamo detto no. Un sacco di volte, ma non è per niente semplice, assolutamente. Assolutamente no, va fatto, insomma, in un certo modo. Devi fare in una certa maniera. Dimmi. Forse proprio perché sono canzoni di accordi semplici tante volte, diciamo. Fare qualcosa di veramente bello, di qualcosa che può colpire la gente, è quello lì il difficile, perché si rischia sempre di cadere nel banale. Certo, sono d'accordo. La cosa più facile è quella lì. E invece noi cerchiamo di fare tutt'altro, appunto. Decisamente. Ok, sono le 22:36 in perfetto orario, live, assolutamente live. Abbiamo scelto la traccia numero 4, L'orgoglio del domani. È un bel titolo, lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Sì. Voi c'è ancora chi non si arrende al suo destino e a quel... Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sì, una caratteristica di questo pezzo, tanto testo molto interessante, e anche la voce di Anto è molto forte. E poi io non sapevo che Anto suonasse anche la solista, incredibile. Sì, sì, sì, la sì. Suoni bene, hai dato una carica tanto. Non da poco. Sì, sì, sì, ho sempre suonato e cantato insieme, ho iniziato così. E... Giustamente nelle recensioni hanno scritto che sei proprio un traino dal punto di vista vocale, sei un traino agli altri. Cari ascoltatori, io l'ho sentito prima di iniziare la trasmissione, lui ha fatto una prova con voce solamente, ed è vero, è assolutamente vero. Grazie. Assolutamente, è un traino notevolissimo, chiaramente gli altri sono bravissimi lo stesso, però il traino della voce è importante in una band, al di là che sei qui presente in questo momento. No, vabbè, certo, insomma, la voce, non per me, insomma, non sì, per certo. Tirarmela, però insomma... Sì. Ovviamente è la parte importante, fondamentale. Poi però chiaramente una band, quindi se manca il bassista, manca il sì. tocco del chitarrista, manca il batterista che è il motore, insomma è un'altra cosa. Uno può avere una gran voce, ma poi se manca una serie di tante cose. Se manca il fonico che mette esatto, insieme i suoni, certo. C'è poco da fare. Manca la corrente. Manca la corrente. Peggio ancora. Vabbè, allora... No, adesso stiamo scherzando, però il gruppo che serve, il gruppo, la sì, coesione sì, fra sì, tutti. Sì, sì, sì, e poi sta nel cantante anche a cercare di inserire la voce nel meglio possibile, nel modo migliore, insomma, nelle sue canzoni, insomma. Salti anche te così. Come fanno i punkettari di una sì, volta. Sì, no, non tanto perché ho sempre attaccato il microfono, quindi non ho tempo una in modo di saltavano saltare, tutti. Vorrebbe saltare di più, ma ci stiamo lavorando. Ah, comunque. Ci state lavorando. Esatto. Abbiamo il nostro, abbiamo Virgo magari. Pensavo di metterti il microfono tipo di Ambra. Ma che Virgo, che funzione ha, oltre a fare un pezzo rap, sì. Che funzione ha? Riprende tutti i diversi elementi e li convogli in un mixer oppure no? Cosa beh, faccio, direi... sì. No, fai tu, di tu. Ma sì, fondamentalmente registriamo il disco, quindi ogni strumentista quando viene, vabbè, ha la propria parte, però diciamo che ha anche un ruolo un po' da supervisore, ecco, visto che è il terzo disco che facciamo insieme. È il terzo disco, sì. Terzo disco che facciamo insieme, quindi un pochino ho capito la strada del gruppo, e quindi magari dalla sala prova vengono lì e mi dicono, boh, cosa ne pensi, secondo ecco, te? Tu hai detto una cosa giusta, dalla sala prova, quando vengono in sala prove, un là, praticamente un tocco, una vista, cioè vi vedete, vi fate un movimento e avete già capito cosa dovete suonare, è così oppure no? Cioè, è l'approccio sì. totale. Subito, immediato. Sì, vabbè, magari non sempre, però insomma ormai sappiamo, ci conosciamo molto bene, insomma. Però appunto Virgo è stato molto importante per unire i puntini. E Virgo ha detto una cosa giusta, microfono spento, che il live ha cimentato sta roba. Quindi il live, fare tanti live, ormai siete è automatico, o no? Sì, sì, sì, indubbiamente. Insomma, il live è il pane delle band. È il pane della band. La band deve suonare, insomma, sennò... Può essere bravo in studio finché vuoi, ma deve suonare. Insomma. È il confronto col pubblico, che poi alla fine è il prodotto finale, insomma, deve arrivare al pubblico. Il live dà modo di ricevere, ecco, il feedback immediatamente. Certo. Ti reagite molto con il pubblico voi? Ma Dio, sì. Sì, sì e no. Ecco, preferisco sempre non dilungarmi in grandi discorsi, ma cercare magari di spiegare il pezzo con poche frasi per poi suonarlo e dare spazio più che altro alla musica, insomma. Certo, certo. Ok, visto che dobbiamo dare spazio alla musica, suoniamo esatto, che suoniamo. Cosa? L'ombra, ok. Rockway, l'onda del rock. Conta il modo in cui cadrai, un albero muore in piedi, i sogni fanno male, orgoglio e rabbia è spesso ciò che rimane, ma poi è sempre la scelta giusta. Sbatter la porta e dire no, quello che ho fatto è scritto è giusto così, la realtà è uno specchio che non mente mai, l'ombra riflessa sei tu, non c'è dettaglio che tenga, sei figlio figlio della tua terra e puoi scappare finché vuoi, ma non c'è storia, la tua memoria ovunque andrai è tutto ciò che sei. Si parte per non morire, per dare un alibi al viaggio devi aver visto la fine. Non c'è una regola, non vi è definizione, ognuno fa per sé, questa è la soluzione. Cosa sente? In fondo è quello che conta. Ovunque sei e ovunque andrai, il tuo passato sarà sempre con te, come un grande specchio che non mente mai. L'ombra riflessa sei tu, non c'è dettaglio che tenga. Sei figlio della tua terra e puoi scappare finché vuoi, ma non c'è storia, la tua memoria ovunque andrai è tutto ciò che sei. Qualsiasi cielo tu veda, non saprai chi sei se non ricordi chi eri. E non c'è storia, non c'è dettaglio che tenga. Sei figlio della tua terra. Bello, bravi, bravi, molto bravi, decisamente era un brano pop che alla fine non è più un brano pop, si è trasformato in un brano punk assolutamente rocchettaro, però era un brano pop, molto, può essere anche un singolo secondo me al limite. Sì, forse lo sarà. Forse ci stiamo pensando. Ho visto un bel solo di Spud, visto che finalmente... Sì, hai visto che lui diceva che non fa niente. Che non fa niente, l'ha fatto, non, l'ha non fatto. Non è vero, lui è così, è modesto. Le suoni anche le tastiere Spud, te? Sì, poco diciamo, ma in produzione sì, nelle sequenze nel disco ho collaborato anch'io a farle. Beh, posso non dire... sono un tastierista, però ho iniziato a registrare in studio con sintetizzatori e cose, un po' me ne intendo diciamo. Secondo me questo pezzo è uscito molto bene, molto interessante, anche accattivante come costruzione sonora, come acustica. L'avete provato quante volte per farlo qua, per portarlo qui in radio? Insomma sì, 700-800 volte. No, secondo me al primo acchito è arrivato. Bene, insomma speriamo che... No, secondo me è uscito molto molto bene, decisamente. È una bella melodia, cioè la melodia qui viene fuori, al di là che abbiamo detto precedentemente, sì, al finale, se il finale continuava... praticamente cambiava tutto, però il tre quarti del pezzo è assolutamente musica pop secondo me. Sì, infatti sicuramente abbiamo spaziato insomma nell'ambito pop, ecco, cosa che abbiamo fatto anche nei precedenti dischi, comunque certo. Abbiamo comunque mantenuto. E che differenza c'è, sì. Anto, rispetto ai dischi precedenti? Cosa c'è di più rispetto agli altri secondo te e secondo voi? Beh, sicuramente c'è molta più esperienza e molta più consapevolezza dei mezzi, diciamo che abbiamo fatto un disco con la testa di qualche anno fa musicalmente, ma con l'esperienza comunque di acquisita oggi, di oggi, con gli anni insomma diciamo, sì, direi che proprio la definizione, insomma, è questa. Abbiamo cercato di fare la cosa, tra virgolette, più spinta musicalmente, però molto più matura. Quindi l'alternativo esiste ancora però nel vostro DNA, oppure si è spento? No, assolutamente esiste. Noi ragioniamo in una determinata maniera, quindi non ci poniamo il pensiero di fare la canzone troppo pop. Non ci diamo limitazioni, niente. Non ci diamo. Esatto, sono le non parole ci diciamo giuste, questa canzone è troppo pop, questa canzone è troppo rock, questa canzone risulta troppo punk. Che canzone è vostra e basta. Esatto. Cerchiamo di mantenere sempre l'equilibrio di cui appunto parlavo prima. Sì, ma è giusto dire, non c'è dire troppo pop, troppo rock. L'equilibrio, sì, è la roba fondamentale, perché la gente ascolta e sente che l'equilibrio dà un certo impulso alla band. La gente ascolta attentamente nonostante tutto, anche se musica punk. Ecco, ci stanno mettendo. Il videomaker sta facendo un lavoro straordinario. Mica solo tu sei in mezzo alla forza. Finché non rompe qualcosa. No, il vetro è sotto controllo. Il vetro è spesso, non c'è problema. Non vedo più Agostino. Non perdi niente. Ok, 22:50 in perfetta sintonia, perché la cavalcata deve essere anche simpatica. Si suona, si parla, si discute e sì, soprattutto la gente che a casa deve capire com'è la sofferenza di una band, nel senso positivo del termine, la forza, perché fare un disco non è semplice. È tanta. Quanto ci vuole fare un disco? È tantissimo. Quanti mesi di discussioni positive, un pezzo non va, questo un po' più di più, un po' meno, un accordo così, un accordo con là. Cara, un batterista che sei in piedi, potresti dirlo te. Il microfono alla Barney. Esatto. Che stia per bere. Col microfono molto, molto Simpson. No, noi... Diciamo che questo disco è stato ha avuto proprio una gestazione molto molto molto lunga. Un parto. Esatto, è stato sì, è durato più o meno 9-10 mesi. Abbiamo fatto praticamente una preproduzione, siamo stati in studio, abbiamo registrato i pezzi, non siamo entrati in studio, fatto il disco subito, abbiamo registrato, ci siamo riascoltati. Diciamo che è stato un lavoro molto molto certosino. Una cosa che chiedo spesso alle band è questo: quando questi sono i pezzi nuovi del disco nuovo, ma li avete provati prima dal vivo, facendoli ascoltare alla gente che si avvicinava a voi nel palco? Sì, qualche pezzo è stato anche provato dal vivo, altri pezzi invece li abbiamo proprio registrati in studio, li hanno sentiti dal vivo il 3 marzo, che è stata la data di esattamente, perché qualcuno dice che facendo sentire i pezzi prima non è positivo, o qualcuno dice il contrario, no, è molto positivo. Da che parte state voi praticamente? Ma noi non siamo superstiziosi. Quindi... Poi la nostra è stata quasi una scelta. Dimmi. Spada, adesso parla. Vedi. Se vuoi parlare solo tu, dillo che andiamo via, noi non c'è problema. Ecco. Beh, nel senso, perché essendo durata così tanto la lunghezza delle registrazioni del disco, abbiamo avuto delle date in mezzo, quindi per forza di cosa l'abbiamo fatta. Cioè, è stata una scelta obbligata. Quindi... Ed è stato modificato, scusate se ritorno al tuo argomento, è stato modificato il pezzo che suonavate dal vivo, o la struttura rimane sempre la stessa? No, è rimasto, cioè, quello principalmente avevamo portato dal vivo prima o poi è cambiato poco praticamente. No, sì, praticamente è cambiato molto poco. Abbiamo messo sul disco quello che già, insomma, i pezzi, quindi le idee erano già chiare, c'è poco da fare. Diciamo, facevamo la scaletta con i pezzi dei dischi vecchi, però avevamo già aggiunto qualcosa di nuovo. E per dare, insomma, per far capire alla gente che comunque i Not For Sale c'erano ancora. La linea prosegue, sì, si allarga, Sale, eccetera. Cioè, noi volevamo dire Not For Sale ci sono, stanno facendo ancora qualcosa di nuovo, quindi fra un po' arriveremo con il lavoro nuovo. Praticamente è stata interpretata così, diciamo. Sì, perché poi noi lavoriamo un po' come diciamo la vecchia scuola, insomma, tanta chitarra e... Un bel muro di chitarre, poco computer. Diciamo, questo disco, allora, la spada non serve per dire. No, assolutamente no, volevo dire quello, nel senso che lavoriamo molto in sala prove insieme, proprio, certo, per dare, proprio perché la situazione di band è quella ottimale, è quella che ci serve. Poi in studio ovviamente ci sono altri, è un altro livello, è un'altra cosa, però preferiamo suonarle e poi andarle, certo, a registrare, certo, sì. Farci le nostre, insomma, litigate in sala prove, sì, anche per due colpi, esatto, di cassa, comporre i pezzi in un determinato modo. Bene, adesso aspetta, dimmi. Maurizio, ti blocco un attimo, io devo portare i saluti a questi ragazzi. Questa sera vi stanno ascoltando, non ci crederete, ma se volete venire a vedere, è la verità, in questo momento siete in ascolto nel Qatar. Nel Qatar. Ma dov'è il Qatar? Che bello. Un fonico si chiama Sayed Ahmed, che tra l'altro lavora anche presso Al Jazeera, vi sta ascoltando. E ah, ora salutiamo gli amici di Al Jazeera. Ciao. Ciao a tutti. Non so come si dice nella loro lingua. Al Jazeera Children Channel. Ah. Dovrebbe dirsi Salam Aleikum. Non so. Non mi addentrerei. Salutiamo gli amici di Al Jazeera. Sì, Sayed Ahmed si chiama comunque questo che vi Ciao Sayed. Hi Sayed. Adesso sentiamo dal disco Senza di te e poi ci sarà il solito giochetto che Agostino conosce e voi forse non conoscete. Si gioca anche. Un giochetto un po' particolare, molto chi semplice. Chi perde paga, eh? Esattamente. Ah, okay, Senza perfetto. Di te, allora sentiamo il pezzo e poi ne parliamo, ok? Ok. Cercando invano una risposta, alla fine del dubbio c'è l'inverno che ti osserva e quello che poteva essere, perché il tempo indietro non tornerà mai, in questa macchina si è fermato. Io maledetto ogni giorno per non avertelo detto mai, coprendo il cuore d'orgoglio, ho mentito anche a me. Ciò che sto pensando. L'ultima cosa che volevo era spiegarti tutto con una canzone, ma il senso, la prosa la sappiamo solo io e te. Le parole sono per il vento, mentre ciò che senti queste note per l'eternità. Forse è stato uno sbaglio dirtelo qui, ma è quello che sento, è quello che voglio, è che sia sempre come la prima volta, che non passa mai. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. qua, abbiamo sentito Senza di te, un pezzo con c'è un po' di romanticismo, dai, possiamo dirlo. Della sofferenza, una sofferenza romantica. Una sofferenza. Sì, insomma, è stato leggermente romantico. È stato scritto dopo un momento, ovviamente, insomma, si può capire. Insomma, chiaramente sì. Sì, è l'unico pezzo, diciamo, che entra in un contesto, diciamo, romantico, di storie di coppia. Insomma, certo, certamente. È l'unico. A me piaceva, sentendolo dal disco, la chitarra che suonava Spad e la tua risposta, gli effetti che davano nella fine, è molto interessante l'idea di questi effetti, di questo accoppiare le due chitarre. Da chi è nata? Da te o da Spad? Ma no, penso sia nata comunque insieme, ma sì, principalmente da Spad, perché volevamo, dopo comunque ti lascio dire, volevamo appunto un suono diverso qua, anche Virgolo. Anche Virgolo ha dato le sue. Volevamo una cosa diversa da tutto il resto, infatti. Difatti è venuto bene, molto bene. Sì, in realtà l'effetto che senti non è niente. In realtà l'effetto che senti non è nient'altro che la traccia. Stai davanti al microfono. Solo davanti al microfono. Ma guardi sempre in basso. Vabbè. Ma non lo vedo. È timido. Certo, non mi vede, esatto. Allora. No, perché lui non è che ci parla, guarda il microfono più. Cioè, ci devi parlare, guardi avanti. Allora, stavo dicendo, l'effetto che tu senti non è nient'altro che la chitarra che ha suonato Anto messa al contrario. Ah, ho capito. In modo che faccia questo suono un po' ispirato, eccetera. Bello. Adesso facciamo una cosa molto semplice, facciamo il famoso giochetto, perché sono le 23 e per nostra consuetudine alle 23 facciamo il giochetto. Quindi tre dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, una regola ferrea di questa trasmissione che va avanti da tanti anni, non si può copiare. E chi perde paga la pizza. Esattamente. Ah, ok, perfetto. No, quindi non inizio. No, assolutamente no, io devo ancora pensarci. Devi pensarci prima. Mi sono distratto. Tocca a me. Non possiamo copiare, non puoi guardare Mimmo. Il batterista è già in piedi qui per parlare lui. Allora, io su un'isola deserta porterei. Allora, diciamo per Belen. Beh, quella non c'entra, quella non c'entra. No, porterei. Non ha fatto dischi, Belen. Innanzitutto. Sì, un singolo, ha cantato un singolo. Ah, sì? Sì, sì, purtroppo. Noi non l'abbiamo sentito. Non importa. Non l'abbiamo sentito. No, quello di Sanremo, è vero. Non è che ha fatto un pezzo a Sanremo. Sì, anche se l'ha fatto, non ha sconvolto non nessuno. Non ha importanza. No, io porterei sicuramente come primo disco, il primo bagaglio sarebbe Babylon by Bus di Bob Marley. E come mai? Sei ami il reggae? Io amo, sì, io amo Bob Marley, amo il reggae, mi piace, diciamo che a me piace la musica in generale, non sono razzista musicalmente. Certo. Io ascolto qualsiasi cosa, dal reggae al rock and roll anni 50, country, qualsiasi cosa, mi piacciono i ritmi cubani, sudamericani, mi nasco come batterista heavy metal, quindi. E come mai Babylon by Bus, che è un disco assolutamente live al 100%? Perché per me l'artista si sente veramente live, quindi se cioè il disco ti emoziona, ma il live, da sentire anche la gente che si emoziona, è tutta un'altra cosa, cioè è un'emozione totale. Diciamo. Esattamente. Cosa ne pensi del disco che è uscito da qualche giorno, live del 1972-73 di Bob Marley, uscito proprio di recente, recentissimo? No, non lo so, sinceramente. Sì, è uscito da pochissimi giorni. Ma guarda, io, a meno che non sia un disco in inediti, però sicuramente è un live mai pubblicato, praticamente. Okay, è uscito da poco. Sì, buon motivo per andarlo a comprare. Esatto, e anche c'è un film che uscirà su Bob Marley. Vabbè, quindi vabbè, un bel motivo per farmi il regalo di compleanno. Esattamente. Sì. Compleanno. Questo è Bob Marley. Poi dividere un CD in 10. Esatto. Secondo disco? Secondo disco porterei proprio per la tranquillità, porterei un cofanetto di Nat King Cole. Ah, ma il cofanetto è una truffa, deve essere un CD. Valgono allora, le compilation. Allora, ci avevo pensato anch'io al cofanetto. Allora faccio una compilation di Nat King Cole. Come mai Nat King Cole? Perché ecco per Agostino l'ha pescato immediatamente. Sì, sì, ma io suono anche con degli altri ragazzi e ogni tanto facciamo qualcosa di Nat King Cole, tipo Route 66, quindi è una cosa che mi piace molto. È un po' natalizio sto pezzo, sì, ma sì. Vai. E come terzo disco porterei qualcosa di potente, proprio uno sfogo, e molto probabilmente porterei Far Beyond Draven dei Pantera. Quello non l'abbiamo nel computer, sicuramente. No. Probabilmente tu che sei un batterista che ha quei ascendenti, praticamente. Io ho fatto in tempo a vedere i Pantera live nel lontano 2003, tra virgolette. Hai visto i Metallica Udine l'altro giorno? No, i Metallica penso che siano l'unico gruppo metal che mi manca da vedere. Mm. L'unico. L'unico. Meglio che ci andiamo. Diciamo vedere, che gli storici... Ma sono già stati, purtroppo. Lo so, non abbiamo avuto modo d'andare. Diciamo che gli storici li ho visti tutti, da Anthrax, Slayer, insomma, li ho visti un po' tutti. I Metallica però proprio mi mancano, infatti manca. Prima o poi provvederò. Bene, chi tocca adesso? Virgo. Virgo, vai, vai Virgo. Allora, mi porterei The Score dei Fugees. Ah, come mai? Aspetta, fermiamoci, un gruppo che ama particolarmente Agostini. Sì, è vero. Ma perché è un... Ma principalmente adesso io gli ho già pensato che ho avuto il tempo. I dischi che andrò a dire, perché quando li ascolto non schippo mai. Siccome avrei solo quei tre sull'isola, perlomeno ottimizzo anche le tracce che ci sono. The Score perché mi piace, è un disco storico, ero ragazzino, mi è piaciuto molto. Anche tra l'altro che c'entra anche con Bob Marley, perché c'è anche il re-edit, insomma, di No Woman No Cry. È perché è un disco che mi piace Lauryn Hill, mi piace il sound che comunque c'entra dalla musica da cui Lauryn vengo. Lauryn Hill è mitica. Esatto. E dentro c'è del rap, c'è del soul, ci sono tante cose, visto che ho pochi dischi dico mi prendo quello, insomma. Certo. E poi prenderei, Americana degli Offspring, che mi piace non lo skippo mai, visto che così rimaniamo in tema, avrei bisogno di qualcosa di forte. E poi un Bovary di Guccini. Ah, come mai... Mi piace molto il cantautore di Guccini, come mai? Ma perché sono appassionato di musica. Ma Guccini, quel periodo là di Guccini, no, prima o dopo? A me piace molto, è un periodo un po' buio. Un po' diciamo, buio, esatto. Sì. Mi piace lì. Più delle ultime cose, che molto belle, però molto poetiche, cioè si staccano un po' tanto dalla popolarità. Ecco, mi piaceva. No, gli anni fino 80, primi 90, fino della morte e l'amore di altre sciocchezze, mi piace molto. Io che sono a una certa età. Il disco più importante, secondo me, oltre ad essere Radice, due anni dopo, Primavera di Praga. Io ho una certa età, ragazzi, che c'è poco da fare. Sono legato a quel disco là, bellissimo. Ma Bovary mi piace tantissimo, non lo schippo mai, anzi non lo schippo, ce l'ho in vinile, quindi non posso. Esattamente, non puoi farlo. E mi porterei questi tre, sarei felice, bene o male, insomma. Positivo. È strano però che un cantante come te, che ama un certo tipo di musica, cioè che fa certo tipo di musica, ami queste... Ma ti dirò che a mio avviso tipo il rap è l'evoluzione naturale dei cantautori, bene o male. Certo. Quindi tutto il background del cantautore, quello ancora adesso li segue tutto. Poi il discorso del rock, vabbè, gusto personale, i Fugees perché c'entrano effettivamente con quello che fa. Guccini. Guccini ha grande fan, l'avrò visto tipo 10 volte live. Bene. La grassa è l'umana. Super Bologna. Ok, tocca tocca a te adesso. Sto ancora pensando in te. Vado io. Dai, vai Anto, tocca a te. Niente, allora io sarò un po' più classico, insomma. Io sicuramente mi porterei, Back in Black, AC/DC. Sicuramente. Classico dei classici. Momenti di depressione, insomma, sicuramente ti alza il volume del sangue. Esatto. Poi... Tornando sul nostro genere, sicuramente, di Green Day mi porterei un po' tutto, però insomma, penso che American Idiot sia stato il miglior lavoro che hanno fatto, che abbiano mai fatto. Certo, anche dal punto di vista di copie, ne ha venduto non so quante, tantissime. 13 milioni di copie. Esatto. E poi d'italiano sicuramente anch'io, comunque o De André o Ligabue, o io sono molto legato. De André e Ligabue, no, occhio. Non mi sognerei mai di metterli uno a fianco all'altro, però... Sicuramente dovrei scegliere fra... O Ligabue o De André. Sì, insomma, dai, direi Ligabue, insomma, sto Ligabue. Sul classico. Speri di agganciare sull'isola, insomma. Cioè, se deserta. Back in Black serve per quello, nei momenti di intimità puoi metterlo... Io ti ho vista già. Tocca a te adesso. Allora. Dimmi. Il nostro bassista, Tre dischi. Tre momenti musicali, ecco, tre dischi, quello che vuoi. Allora, sicuramente porterei Californication dei Red Hot Chili Peppers. Grande disco, quello sì è un grande disco. Quello ha fatto la storia. È stato l'album con il quale ho iniziato a suonare io praticamente, e quindi sicuramente quello. È quello che hanno sbancato tutto il mondo praticamente, esatto. C'è poco da fare. Tanti ricordi, tante... Da mia gioventù, senti che roba. Esattamente, mio padre. Poi porterei... Stasera Agostino è scatenato. Cioè, ce le ha tutte, le sa tutte. Adesso voglio vedere se trova le mie. Almeno uno, secondo me. Poi porterei... sempre, che fa parte del mio bagaglio giovanile, che me lo tiro dietro continuamente. Comunque, a contraddizione da quello che tanti dicono, che il miglior album dei Metallica sia Master of Puppets, io porterei Red the Lighting, quello primo, che secondo me ha addirittura un qualcosa in più. E invece di italiano, e qua tutti direte, io porterei Metallo non Metallo dei Blue Vertigo. Però, perché no? Che secondo me è stato... Quando Morgan faceva altre cose, praticamente. Secondo me è stato un gran album, ed è stato il primo CD che ho comprato a 13 anni, quello lì. Però è uno dei primi CD della New Wave italiana, in tutti i sensi, praticamente. Sì, quando ancora non c'era nessuno. Che faceva quel genere là. Così hai anche svelato la tua età, in maniera... Ma giovanissimo. Assolutamente. E tocca a te adesso, Spada. Ho pensato anche. Hai pensato, bene. Non dire parolacce, Spada. No. Quindi, dicevamo, allora, per iniziare, anche per ordine, diciamo, di il mio avvicinamento al rock, metterei, visto che prima abbiamo parlato di compilation, che io metterei una compilation dei Queen, perché per me i Queen... Agostino è un grande fan dei Queen. Grandissimo. Sì, volevo dirli io, ma te li ho lasciati perché sapevo che li avresti detto. Grandissimo. Allora, il Queen per me è la melodia, cioè... Oltre, al di là dei musicisti fantastici che erano, e delle cosa ti piace di Queen? Tutto, io ho tutti i dischi di Queen, tutti live, tutto. Quindi, cioè, qualsiasi cosa. È proprio la melodia, cioè, anche se comunque era rock, cioè magari negli ultimi periodi poi un po' più tranquillo, però era veramente rock, hard rock, la melodia. Beh, non... I primi due dischi sono hard rock. Durissimi. Esatto, non è mai mancata comunque la melodia. Quindi questa è una cosa che mi sono sempre portato dietro, anche in tutti i gruppi e la musica che io ho fatto. Poi, esatto, spettacolare questa canzone. Poi direi, come secondo disco, spero di pronunciarlo bene perché il mio inglese è abbastanza scarso, The Downward Spiral di Nine Inch Nails. Vai sul difficile. Non l'abbiamo questo. Non lo conosco. Non l'abbiamo. Praticamente, la pecca. Lui praticamente è un musicista straordinario, lui come lo musicista. Conosci? Sì, okay, sì. Perfetto, grandissimo. Secondo me quel disco lì, io sono sempre stato quello un po' più alternativo del gruppo, e quindi quel disco è uscito nel 95, quando si andava verso la perfezione del suono, tutti puliti, perfetti. Lui è uscito con un disco con suono assolutamente non pulito. Esatto. Non pulito per niente. È stata proprio una demolizione di tutto quello che andava verso l'ordinario. Questo per me è proprio un capostipite della musica. Terzo disco, per stare sull'italiano come hanno fatto tutti, io direi una raccolta della PFM, perché è il gruppo che secondo me in Italia, cioè noi abbiamo avuto sempre dei grandissimi musicisti, però è il gruppo che veramente secondo me ha dato un'ondata di freschezza, più che altro di freschezza, di novità, di sperimentazione veramente in Italia. E dobbiamo dire che anche se ce ne sono molti altri, è stato l'unico gruppo italiano che è arrivato ai primi 200 in classifica di Billboard. Non è mai successo, al di là di Modugno non c'entra, Modugno è arrivato nei primi posti, però gruppo italiano Billboard nei primi 200, e questa impressione di settembre, nonostante fosse scritto da Mogol, è un pezzo meraviglioso. Poi l'hanno ripreso tutti, l'ha ripreso anche Marlene Kunz, bene, e l'ha fatto anche la grandissima Patti Smith a Sanremo. Sì, pensare che è un pezzo del 1971. Esatto. Lo so. Quando eravamo giovani ancora. Questo fa parte del background che ti fanno ascoltare i tuoi genitori, perché tu ancora sei troppo... Perché Storia di un Minuto era un disco molto importante. Esatto. È un disco, non dico di progressive, sì, anche di progressive decisamente. Disco... Hanno fatto cose più progressive loro rispetto a queste. Però questo era molto bello. Stato l'inizio di una grande cavalcata. Dobbiamo sottolineare che loro erano quelli per praticamente. Esatto. Quindi facevano musica beat, però sono evoluti e arrivare a diventare la PFM, un gruppo straordinario. Ok, abbiamo concluso questo giretto sui vostri pezzi preferiti, i vostri musicisti preferiti. Però te ne erano pochi, Maurizio. Lo so. I primi tre che mi sono venuti in mente. Lo so, hai ragione, erano pochi. Però... Io invece ci ho ragionato molto bene. Io no, non ho avuto bene. Io partendo per primo sono stato penalizzato. Infatti in italiano non ho detto niente, però se dovessi scegliere tra gli italiani, ce ne sono talmente tanti, tra Lucio Dalla, Buscaglione, De Gregori. Cioè non sapresti neanche da dove cominciare. Ma infatti... Ci vorrebbe una valigia solo Battisti, di... insomma. Ma noi quando chiediamo sintetizziamo, cioè... È giusto per capire e per conoscere i vostri gusti, solo per quello. Ok, adesso suoniamo e c'è poco da fare. Che cosa? Allora, adesso suono un pezzo da solo, l'unico pezzo del disco acustico, diciamo. Quindi questo è acustico e si chiama Il modo in cui lo fai. Ok. Blu Radio, Veneto. Blu fatto i conti con lo stomaco, il risultato è stato pessimo ed ho capito che non c'è proprio niente da capire, perché la vita va come se niente fosse, e anche se il fine giustifica il mezzo, ci perdiamo il viaggio e i colori che lo rendono unico. Non c'è motivo per non cedere all'emozione vigliacca o bella che sia. Il male arriva solo per ricordarci che per quanto sia difficile, per quanto sia fantastico, non conta il risultato, ma il modo in cui lo fai. Ieri non conta niente, domani chi lo sa, è oggi il giorno giusto per vivere. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ho fatto i conti con lo stomaco, il risultato è stato comico, quanti sorrisi che non ridono, ed ho capito che ognuno ha gli occhi che si merita, e tanto vale prenderla così, come se fosse sempre venerdì, quando i problemi vanno giù alla goccia e la luce che ti spegne è solo quella dell'alba. Per quanto sia difficile, per quanto sia fantastico, non conta il risultato, ma il modo in cui lo fai. Ieri non conta niente, domani, domani chi lo sa, è oggi il giorno giusto per vivere. Chi passa una vita a far di essa un'ossessione pur di essere il migliore, ma non c'è frase più vera di dare niente per scontato e il resto al fatto. E così sia, se proprio devo, preferisco essere l'unico senza soldi e senza meta, ma con la faccia pulita e uno stomaco fedele. C'è qualcuno che c'ha la cuffia un po' alta che vi fischiava forse qualcosa? O forse se l'era tolta magari forse. In ogni caso il pezzo era molto bello. Era molto bello, complimenti, bello. Decisamente. Come mai, Anto, avete deciso di inserire questo pezzo, l'ultima traccia, acustico? Cioè, rispetto, cioè, non dico di uno scossone, però... Si allontana leggermente dall'andamento degli altri nomi. Sì, in effetti è una cosa totalmente diversa da tutto il disco, insomma. Beh, noi diciamo, insomma, io essendo appunto che sono influenzato da quello che è il mondo cantautorale italiano, sicuramente di pezzi così, insomma, ne farei molti di più, insomma. Però comunque ci stava, nel disco ci stava, abbiamo trattato altri argomenti, certo. Abbiamo spaziato su altri argomenti, insomma, rispetto a tutto il resto, quindi ci sembrava il modo migliore di finire, di concludere. Esatto, per fare un pezzo in questo modo e concludere un disco, insomma. Nella sequenza del live, o nei presunti live futuri che farete, praticamente quando presenterete questo disco, sì. Dove sarà messo questo pezzo? In mezzo. Facciamo in mezzo alla scaletta, facciamo questo pezzo, e spesso anche un vecchio. A Firenze l'avete fatto proprio in mezzo allora? Quando avete a Firenze più... sì, mi sembra di sì, mi sembra che l'abbiamo fatto in mezzo, adesso non ricordo, comunque sicuramente sì, non né all'inizio né alla fine, insomma tentiamo di dare un momento di cercare di far riposare i vostri fan. Sì, esatto. È un po' di respiro, esatto, ma è un respiro bello, bello, acustico, avvolgente, come l'avete fatto stasera, 23-19, assolutamente in diretta, qui a Rock Wave, perché il rock è sempre il rock. È rock acustico, ma è sempre rock, c'è poco da fare. È l'anima della musica. Mi dica, Agostino. Niente, stavo ascoltando quello che stavi dicendo. Ok, benissimo. Adesso abbiamo sentito questo pezzo acustico, molto bello. Mi pare che in scaletta ci sia questo, vero Virgo? La traccia numero uno. Traccia numero uno. Adesso la sentiamo e dopo ne parliamo ancora, ok? Sì. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ecco, non saltavi come Pete Townshend, però questo era un pezzo da saltare assolutamente. Sì, abbastanza. Molto da saltare. Un po' di pogo ci sì. Sta. Mi dicevi una cosa molto simpatica. Come c'hai il collo dopo questo video, visto che... Ah, guarda, è stata una settimana. Racconta, racconta il giochetto, l'esperimento del collo, praticamente. Ma allora, diciamo che su questo pezzo, appunto, e sarà... molto in energia, perché lo attacchi proprio, sì, vocalmente, sì, lo attacchi, perché per dare un calcio a questa vita deve essere attaccato. Chiaro? Sì, esatto, e poi anche fisicamente, appunto, nelle riprese che abbiamo fatto ci è costato qualche giorno di convalescenza al collo. Insomma, del però, collo. Vabbè, insomma, sono cose che si fanno, insomma. Anche un qualche livido. Anche qualche livido, sì, insomma, però non vogliamo svelare niente, perché insomma sarà il prossimo singolo. Si vedrà il varie singolo... escorazioni anche sugli strumenti. Capirete quando vedrete, insomma, il Per gli strumenti possiamo dirlo, perché tanto c'è una voce trattata in un certo modo, dimmi. Ah sì sì, abbiamo fatto una parte tipo con voce megafonica, diciamo, però è stata registrata tipo megafono praticamente. Esatto, però è stata registrata normalmente, abbiamo deciso dopo di aggiungere quell'effetto sulla voce, come anche altre effettine. C'è un momento dove la band stacca totalmente e entra un effetto proprio elettronico che fa ripartire il brano, che poi continua anche nel ritornello. È un'idea che hanno voluto, per dare qualcosa in più, anche se era punk dura. Sì sì, però volevo duro, dare durissimo. Della novità, magari l'elettronica col punk non si è mai sposata, non ha fatto in tempo magari con gli anni d'oro del punk. Volevamo provare, diciamo, questa è stata unione. Un'idea intelligente, secondo sì, me. Sì, questo secondo me fa parte anche più dell'aspetto rock più che punk della sì. band. Sì, esattamente. Punk, sì, hai detto la cosa giusta, sì. Punk, sì, ma però è rockettaro, assolutamente. Io comunque quando mi chiedono che genere ha fatto, io specifico sempre punk rock, non esattamente punk, perché cioè il punk secondo me era anche più dritto di quello che facciamo. Noi abbiamo diverse sfumature che il punk, diciamo, per quello che vuol dire la parola, non ha. Quindi, sì, io ho detto punk principalmente per la velocità. Sì, sì, sì. No, se volete picchiarvi. Era un brano, e dopo ci picchiamo in auto. E batterista dava il suo compito. Spaccavi tutto qua. No, io quando abbiamo fatto il video ero infognato nel mio angolino. Esatto. Però quando facciamo live è un pezzo che, insomma, vale la pena sentirlo live. Live elettrico, soprattutto. Live elettrico, esattamente. Perché gli strumenti sono tirati a manetta, praticamente. Sì, ti lascia veramente qualcosa, sia dal punto di vista di proprio emozionale per il testo della canzone, che proprio dall'impatto che riesce a dare dal vivo il pezzo stesso. Adesso sentiamo un pezzo che qualche critico ha scritto che ti avvicina ai Linkin Park, Virgo. Ah, ma forse è la fusione che si avvicina. È la fusione. È un pezzo un po' particolare, perché lo canti in modo rap, praticamente. Sì, sì. Vero? Si chiama Antologia, è così? Antologia, ok. Yes. Le parole tremano mentre le frasi sfumano. Non c'è rimedio a questa fitta quando ti prende. Chiedo scusa. Avevo capito che volevate dal disco. Colpa mia. Rimediamo subito. Cosa ci fate ascoltare? Lo dicevi? Antologia, sì. Ok. One, two, three, four. Molto sopra i libri sulle antologie. Gli errori fatti in altri tempi sono sempre attuali. Gli accordi e disaccordi vengono sempre da strette di mani. Le mani parlano anche se la parola tace. La guerra nasce solo se c'è la pace. Pace. Succede che poi nasci presto, cresce sei sveglio. La vita parte dura e poi cerchi di fare meglio. E cerchi coperte per riscaldare il freddo. Caverne per costruirti un perno. Rimedi per migliorare il peggio. E quando hai la pancia piena, una coperta sulla schiena. Sogni insieme ai sogni, puoi andare più lontano. Camminare in viaggio, cercare al termine del braccio e la mano. Mano che spinge un'altra mano e ricomincia un braccio. Salire rapido alla spalla. La spalla regge l'oppressione, il timore del vuoto. Tu che preme dentro le persone. Sai le spalle larghe come il nuoto, tu sopporti le pressioni. Ma se le spalle spezzano le onde, passano le boe. Non è detto che poi ti tenga il cuore. L'amore, il dolore, il rancore ti mirano al petto. La guancia, uno schiaffo, un verbo, tutto quello che m'hai detto. Non sono un angelo, no, non c'ho manco le ali. Ho solo detto che se devo sbagliare una vita, devo sbagliare una vita, devo sbagliare una vita, devo sbagliare una vita, se devo sbagliare una vita, non voglio più fare due sbagli uguali. Creavi il tutto e niente con la semplicità, e il niente in fondo era tutto, era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, no. Tu non le vedi o non le senti più, tu non le senti più. volevo. Creavi tutto e niente con la semplicità, e niente in fondo era tutto, era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, tu non le vedi o non le senti. E poi esco là fuori, vedo monolocali, villette da impresari. Di caverne ce ne sono più di una qua, e le coperte non servono con condizionatori, termosifoni e vetri in termopan. La pancia è sempre piena, si paga la fatica a rispettare la dieta, ma confondiamo pena e compassione con la bontà, e l'acqua corrente, le buone maniere con la civiltà. La civiltà che sta nei nostri cuori, li abbiamo fatti a fretta e trasportati in banca, in furgoni, portavalori. So che la strada è dritta lungo il fosso, il semaforo è passato ma era rosso. E boom boom boom, abbiamo fatto un botto e tutto il carico boom boom boom si è rotto, si è confuso, e mentre in strada mi sangue nel muso, il mio forziere aperto e con il tuo si è fuso. E sull'asfalto i tuoi valori, i tuoi doni, la tua argenteria, i giochi inutili dei tuoi natali, miscelati con i miei che gridano di sogni, di speranza ed ideali. E dopo mille botte, mille scontri, si è confuso tutto, i sogni parlano d'oro, gli ideali sono il lutto e pure le speranze ultime a morire in guerra, guardano i nostri cuori marcire per terra. Creavi il tutto e niente con la semplicità, e niente in fondo era tutto, era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, tu non le vedi o non le senti più. Originale Virgo, not for sale. Creavi tutto e niente con la semplicità, e niente in fondo era tutto, era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, tu non le vedi o non le senti più. Sì, sto attendendo la fine dei piatti. Posso dire una cosa? Adesso mi rifai un'altra volta il finale, mentre tu parli, e poi lui si inserisce con la parte finale, che era molto bello. Posso dire una cosa semplice? La prima volta che ospitiamo uno che fa rap, ma proprio mi ha dato, mi ha sconvolto il senso positivo. Però rifai un'altra volta il refrain del pezzo. Dove vuoi te? Okay. Ma a cappella, senza... Sì, no. Voi due, no, tutti insieme, come è il refrain, l'ultima parte del pezzo, dai. Facciamo l'ultima parte. Ma la seconda strofa? È una strofa. Seconda strofa, vai. Sì, vai. Dal mio stacchettino. Sì, ok, proprio così. Anche tu, Sara, poi esco là fuori. E poi esco là fuori, vedo monolocali, villette da impresari. Di caverne ce ne sono più di una qua, e le coperte non servono con condizionatori, termosifoni e vetri in termofan. La pancia è sempre piena, si paga la fatica a rispettare la dieta, ma confondiamo pena e compassione con la bontà, e l'acqua corrente e le buone maniere con la civiltà. La civiltà che sta nei nostri cuori, li abbiamo fatti a fette e trasportati in banca, in furgoni portavalori. So che la strada è dritta lungo il fosso, il semaforo è passato ma era rosso. E boom boom boom, abbiamo fatto un botto e tutto il carico boom boom boom si è rotto, si è confuso, e mentre in strada mi sangue nel muso, il mio forziere aperto con il tuo si è fuso. E sull'asfalto i tuoi valori, i tuoi doni, la tua argenteria, i giochi inutili dei tuoi natali, miscelati con i miei che gridano di sogni, di speranze, di ideali. E dopo mille botte e mille scontri, si è confuso tutto, i sogni parlano d'oro, gli ideali sono il lutto e pure le speranze ultime a morire in guerra, guardano i nostri cuori marcire per terra. Creavi il tutto e niente con la semplicità, e niente in fondo era tutto, era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, tu non le vedi o non le senti più. Creavi tutto e niente con la semplicità, e niente per tutto era la realtà. Le ali c'erano ma ora no, ora tu no. Non le vedi, no, o non le senti più. Tu non le senti più, non le senti più. Bravissimi, è la prima. Grazie. Cioè, sapete, a Rockwave non si fa mai le cose come si fanno normalmente. Io invento sempre e faccio fare il reprise. Paganini non ripete, ma stasera abbiamo ripetuto. A me è piaciuto tantissimo. E posso togliermi una curiosità mia? State bravissimi, sì, lo so. Vabbè. Volevo dire che di solito la F esce, non rimane così. Tra le... Io volevo chiedere una cosa al rapper, sì. Perché ti vedo così davanti a me, ma quanto difficile è cantare rap? Cioè, l'impostazione anche dell'aria, del respiro, di tutte, sì, quelle cose là. Quanto ci vuole? Quanto ci devi lavorare per fare una cosa del genere? Sicuramente il respiro è un problema. Diciamo la cosa più complicata, a mio avviso, è quella della tipologia di scrittura, perché bisogna... Beh, ovviamente il senso è importante, però bisogna mantenere la ritmica, le rime, hai molti vincoli il rap. Infatti. E poi bisogna scrivere tanto, perché un testo rap occupa 2 pagine di un quaderno, a volte anche 3. Certo. Perché... Mentre una canzone solitamente occupa la classica strofa, 5 versi, 10 versi. E la devi imparare a memoria. Oltretutto. Sì, quello bisogna stare attenti, ma però noi abbiamo il vantaggio, si sbaglia spesso nei live rap, potevo sbagliare anche adesso, però di solito andiamo avanti, ce la caviamo, è anche spettacolo, fa parte del gioco. Certo, ecco. Certo. Mi comunque ci si riesce abbastanza, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ci vuole allenamento, ci vuole tempo, ecco, certo. E poi una cosa bella, la gestualità, cari ascoltatori, non abbiamo le telecamere, però la gestualità di Virgo è sintomatica, essenziale, è proprio la caratteristica del rap. La gestualità, il muoversi, le mani che si muovono, che danno l'aspetto proprio di... Solitamente nel rap si cantano cose molto personali o comunque sentite, e quindi è come quasi quando si litiga, ecco, si sta, vabbè, non nella parte negativa del litigio, però la carica che si mette in un litigio, quindi è impossibile tenere ferme le mani, ecco, almeno una di solito, l'altra al microfono. In questo caso potevo usarne 2 perché era più comodo. Io volevo confermare la difficoltà di scrivere un testo rap che appunto si è cimentato il nostro aspetto. Ci ho provato, dopo gliel'ho dato in mano e mi ha detto vabbè, dai, un po' lo stesso. No, anzi, mi aveva detto che la base, la principale era buona, insomma, però diciamo guarda che comunque ci vuole un bel po', io non sono tanta pazienza, ho detto vabbè, ok. Io non posso dirti, io non sono del DNA, cioè non ho il DNA musicale del rap, assolutamente no, neppure Agostino penso, però fatto in questa versione stasera ma coinvolto, c'è poco da fare, complimenti. Bene, suo bene. Perché ci sono comunque molte band, cioè molti gruppi rap che hanno suonato con band, gli stessi Cypress Hill, giusto? Sì, sì, Cypress Hill, tantissimo. Anche altri che... I The Roots anche, sì. The Roots. Una volta Roots si usava di più usare la band per i gruppi rap. Ho capito. Però noi stasera siamo riusciti a fare anche il rap acustico. L'abbiamo fatto molto bene, veramente. È la prima volta che fanno, che succede qui. È la prima volta che succede uno che fa rap. Comunque se io mi permetto... È la prima volta anche per noi del rap acustico. È anche la prima volta che mi rimaneva una F così in bocca, volevo dire, tra parentesi. Se mi consentite una cosa, diciamo, io non sono ignorante nel rapper, però insomma, ma credo che ci sia rap e rap. Certo, ma come in ogni genere. Come testo soprattutto. Ovviamente. Ah sì, certo, certo. Perché sinceramente anch'io non amo molto il rap, però ci sono dei testi che veramente sono ridicoli, insomma, tra virgolette. Certo, c'è altri rap, che invece... Il rap è un genere che comunque può fare ballare, pensare, a certo, volte ridere, e quindi ovviamente se uno si aspettava di ragionare su brani magari da party, ovviamente no, doveva ballare, bisogna certo, anche capire il senso, dove vuole arrivare ovviamente. Certo, giustamente. Ok, 23:37, dopo questo bellissimo pezzo, sentiamo il pezzo che dovevamo sentire, avevamo stabilito nella scaletta, che è il titolo, te lo ricordate? È il vento cambia anche per noi. Esattamente, esatto. Adesso, non per noi perché andiamo sempre verso il rock, però cambia qualche volta. Sì. Le parole tremano, mentre le frasi sfumano, non c'è rimedio a questa fitta, quando ti prende gola e stomaco. E chissà come sarebbe stato se tu non li avessi mai provati, quei 5 minuti, il vento che cambia, questione di vita. Vento cambia anche per noi, il vento Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ancora una ventina di minuti in compagnia di questa band che si chiama Not For Sale qui a Blu Radio Veneto. Yeah. Io ne approfitto per chiedervi, ma come nasce questo nome del gruppo? Allora, il nome del gruppo... bella domanda. Beh, sicuramente con questo nome ci siamo voluti mettere dalla parte, diciamo, che in fondo è stato così, finora è stato così... Non in vendita. Esatto, non in vendita nel senso però musicale, nel senso, certo, ovviamente che noi, la nostra musica è originale, è nostra e non vogliamo che nessuno la cambi, sicuramente, insomma. Questa è la motivazione del... Come capita spesso, insomma, su qualche produttore ci mette lo zampino. Se qualcuno invece riesce a lasciare l'anima del gruppo, spesso è meglio, ma la maggior parte delle volte, insomma, capita spesso che viene cambiato. Visto che ci siamo, Agostino, diamo i riferimenti, casa, certo, discografica, stavo... produzione, eccetera. Sì. E dove si trova il disco? Allora, il nostro album, appunto Calma Piatta, lo potete trovare ai nostri concerti, ma anche ovviamente nei negozi di dischi, quindi Fnac, Feltrinelli, tutti i negozi fisici e anche store digitali, ovviamente iTunes, Amazon, vi discorrendo. E poi il CD appunto è stato prodotto da V-Rec, appunto la etichetta di David Bonato, tra cui anche appunto ricordiamo un ufficio stampa Davvero Comunicazione. E vabbè, riferimenti web, noi abbiamo un sito notforsalerock.com. Abbiamo un Facebook, ovviamente, Not For Sale Rock, quindi facebook.com/notforsalerock, idem per YouTube, youtube.com/notforsalerock, mentre invece Twitter è Not For Sale Band. Questi sono i nostri. Quindi se qualcuno vi contatta potete tranquillamente spedire il disco. Sì, se qualcuno non ha possibilità, lo può richiedere comunque nei negozi oppure acquistarlo anche negli store digitali, nel caso glielo spediamo, certo, non c'è nessun problema. Certo. Insomma. Prossimi concerti? Allora, i prossimi concerti ne abbiamo giusto uno sabato, saremo alla Cacianca Tribe di Vanzago, provincia di Milano, insieme a un'altra band, e poi la settimana prossima, il 26 di maggio, faremo il V-Rec Festival, il festival della nostra etichetta, in un locale in centro Verona, e il 10 giugno saremo poi a un festival molto grande dalle nostre parti, che è il Pego Rock Festival, appunto di Pegognaga, e saremo headliner il 10 giugno, domenica 10 giugno. E alle Scimmie com'è andata? Alle Scimmie è andata benissimo, siamo stati... Un gran bel locale quello. Sì, un locale pieno di storia, dove è stato un onore, una forte emozione suonarci. Fra quello e la Salumeria della Musica, che penso che Milano e quella della Lombardia... Sì, insomma, direi proprio di sì, ma forse le Scimmie, non lo so, forse hanno... Non lo so, per qualcosa noi perlomeno, esatto, per noi è stata veramente una grossa emozione. È venuto anche Virgo con noi, abbiamo fatto un pezzo rap, cosa che secondo me mai sentita in quel locale. Figata, con tutto il pubblico seduto. Esatto. Mai fatto. Mai successo nel rap, il pubblico seduto. Però insomma abbiamo... È stata una bellissima emozione, una bellissima esperienza, speriamo di ripeterla, insomma. Certo. Ok, adesso suoniamo qualcosa dal vivo, che cosa? Il giorno zero. Adesso facciamo appunto il giorno zero, che è il penultimo pezzo del disco. Ok. Bomba. Paura, dai, sia che sale senza dirtelo e ti riempie dal cuore all'anima. C'è stato un tempo per perdere, vai fino in fondo e ora vivi più in fretta che puoi, senza pensare al dopo e domani, sarà sempre il giorno. È una questione di sole, non c'entra come sei e dove stai. Ogni giorno è quello buono, ogni giorno è un mondo nuovo, e sempre e comunque sarà il tuo giorno zero. Pensare al dopo e domani sarà sempre il giorno zero. Questa è molto molto aggressiva e grintosa. Vi scatenate quando la fate sul palco questa? Sì sì, questa sì, questa sì. Sì, sì, sì. Ho visto che come sei partito energico, esatto. Sì, sei partito anche tu con la chitarra, ho visto che sei proprio quasi quasi ti veniva da saltare. Sono bloccato anch'io in un angolo. Era molto bello, molto accattivante, soprattutto la melodia che si sposava col furore del rock, praticamente. Sì, punk, del rock, diciamo. Del rock. Sì, forse il pezzo più solare, diciamo, del disco, più spensierato, insomma. È vero, ecco. Esattamente. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora una decina di minuti, abbiamo qualcos'altro da dire. Io volevo chiedere, come nascono le vostre canzoni? Allora, sia come testi che come musica, ovviamente. Sì, sicuramente nascono nei luoghi magari più impensabili, non so, magari viene in mente anche sul lavoro qualche frase, una melodia, oppure di notte prima di andare a dormire, insomma. E quindi uno se la scrive subito? Sì, spesso io prendo appunti, diciamo, scrivo frasi, annoto, insomma, e poi metto tutto insieme in una situazione di chitarra e voce da solo. Come sempre, insomma. Esatto, ragiono in questo senso. Poi ovviamente l'idea può anche essere stravolta, è capitato diverse volte che poi con la band la cosa venga totalmente stravolta, ovviamente. Siamo una band, quindi questo è quello che facciamo. Sì, esatto. Sì, quindi sì. Vive la democrazia, esatto. Ed è giusto che sia così, insomma. C'è il videomaker che ha seguito proprio minuto per minuto quello che avete detto. Il Ciano, lui è il numero uno. Il numero uno. E cosa da sottolineare? Che la copertina c'è il tuo cranio praticamente. Sì, sì. La tua testa praticamente. E i piedi. E i piedi, esattamente. Testa e piedi, sì. Mi hanno usato anche per quello. Anche per quello. È stato indispensabile. No. Ha fatto da producer, da amico, da consigliere. E anche da fotomodello. Featuring e tutto. E sì, tutto sì. Quanto. Poi di questo, perché abbiamo citato... In realtà non voleva che si sapesse, però ormai l'hai detto. No, ma per Dio. Abbiamo citato Virgo perché adesso sentiamo il pezzo che abbiamo sentito prima, il reprise, cosa rarissima a Rockway, non è vero, qualche volta capita. Adesso me lo devi spiegare te, visto che sei il protagonista di questo pezzo. Cioè, Antologia è la traccia numero 6. Di cosa parla? Tipo. Sì, di cosa parla. L'idea di questo brano è un brano che avevo già sviluppato in maniera totalmente rap, hip hop. Dopo, sentendolo con Anto, abbiamo detto, ma sì, perché non lo rifacciamo, bla bla bla, e siamo arrivati a questa versione. Diciamo che l'idea nasce da, è un po' contorta, però parla praticamente dell'umanità che in teoria normalmente dovrebbe evolversi e migliorarsi, e l'ha fatto per un certo periodo fino a che negli ultimi tempi, insomma, ha rifiutato praticamente questo dono, ecco, dell'evoluzione, e stiamo involvendo. Mm. E in base a questo, insomma, racconto un po' di storie dove insomma nel presente praticamente sono più importanti, di quei sogni parlano d'oro e gli ideali sono in lutto. Parlo di questa confusione che c'è tra gli ideali buoni, ecco, invece i sogni materialistici del mondo che ci circonda, ecco. Ed è stata volutamente messa nella traccia numero 6 perché supera la metà percorso, secondo me è stata ad hoc, è stata voluta così. Sì, è stata fatta per spezzare un attimo il ritmo punk. Sì, esattamente. Del disco, insomma, ci stava. Adesso la sentiamo.

Io sono Virgo e faccio il rapper. Nonché il fonico. Anche fonico. Salutiamo anche il Ciano qua con noi che ci sta filmando. Videomaker. E volevamo salutare anche David Bonato, appunto, certo, che è il nostro produttore ufficio stampa. E salutare anche Chris Lago, che è il ragazzo appunto che ci ha fatto i cori, ha collaborato attivamente al disco e anche al videoclip di Prima o Poi, perché ce l'ha girato lui, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. E noi ringraziamo anche Alberto Plisco, certo, che vi ha portato qui. Ah, esatto, sì, esatto. Che vi ha voluto anche Alberto, qui. Ringraziamo voi per lo spazio e Blu Radio Veneto. E ce ne fossero. Ce ne fossero come voi, veramente, grazie. Noi siamo qui. Fantastico. Ti facciamo un applauso. Grazie a voi. Facciamo un applauso. Grazie. Credo sia la prima volta che ci fanno un applauso. Sì, è vero, vero. Ma lo fanno col cuore tutti quanti. Sì. Però loro l'hanno fatto veramente col cuore, nel senso dal vivo. È una serata di prime volte. Esatto, la serata di prime volte. Hai ragione. Allora, prima di salutarvi e di salutarci, io e Maurizio vi diamo appuntamento a domani sera. Quindi, tra meno di 24 ore alle 21, siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui con un live. Questa volta è il cantautorato. Viene da Genova. Si chiama Antonio Clemente e ci presenta il suo disco di recente uscita. E quindi non cambiate canale, come si suol dire, ma restate sintonizzati su Blu Radio Veneto. Stay tonight, come si dice, giusto? Bene, allora ci salutiamo con... L'ultimo pezzo suonato con Per dare un calcio a questa vita. Ciao ai Not For Sale. Ciao, ciao Blu Radio Veneto, ciao a tutti gli ascoltatori. E grazie di essere venuti. No, grazie a voi, grazie mille. Ciao, buonanotte ciao. A tutti, grazie, ciao. Yeah. Fuori e lasciarsi vivere con il nodo fisso in gola, la morale che ti spacca, la vita che ti schiaccia con la sua normalità. Che volte sai quello che vuoi, questa vita che troppe volte fa di noi la seconda scelta. Questa non è libertà, è compromesso. Arriva per tutti il suono della passione, solo un'attenzione, forse non sarà come vorrai. Ciò non toglie che in fondo si tocca per salire senza limite. Dimmi come, quanto e dove e io ci sarò per dare un calcio a questa vita. Troppe volte fa di noi la seconda scelta. Non è verità, è compromesso. Rimorsi certo ne avrai dentro, ma un punto a capo non è mai un rimpianto. Questa vita Grazie, grazie mille. Veneto come non l'hai mai sentito.